Lungo linea, aria di ferrovie nei miei polmoni, zaini carichi di bozze, tavolozze di colori, tra quei muri, vietati rumore, scenario di vagoni sui binari, più freddo di gennaio, un paio di tag sulle Claire, poi blocco red, red crude, tempi di Ganesh, di più fumogeni nell'aria, ma non si sbaglia, pittura fresca, bianca che abbaglia, tempo di una paglia, per il flop d'argento, con medaglio, salto muri, piante e tubi, tipo Super Mario arruolato in questa disciplina, montana sulla strada, lungo linea. Ogni via, ogni banchina, ormai mattina, l'alba nuova sorgerà, dita ancora sporche, di nero on the run, un'arte, non vandalismo, una forma d'espressione, come le parabole di Cristo. Succede quando stai sulle banchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Succede quando stai sulle panchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Decifro pezzi sfogliati sulle fanze, 3D white style che bombardo tipo Panzer. C'è chi li vive, dopo chi li scrive, lettere cattive ma dipinte con le grazie. Pitture a macchie, tecnica d'acquerello, metro di Milano in mano sempre pennarello. Red crew adesso, murate a Monticello, linea violoncello, dolci caramello. Agitazione in stazione, tra minimi rumori, vesto sti vagoni con colori nuovi, suoni che ti mettono in guardia, tensioni, sensazioni, sì, di un mio stato d'ansia. Pezzo che si allarga dalla bozza al muro, il deposito è sicuro, lo skinny spruzza il buio. Poi resto muto e finiamo questo blocco, in un attimo una foto e via, il gioco è fatto. Succede quando stai sulle panchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Succede quando stai sulle panchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Fat Cup. Succede quando stai sulle panchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Succede quando stai sulle panchine agitando le tue materie prime, abbozzando ciò che farai sulle banchine, questo è Fat Cup. Fat Cup, Fat Cup, Fat Cup.